1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qui, cari amici miei debosciati d'Italia, è martedì. È martedì e meno male che c'è il Milan. Mamma mia, ieri mi avete massacrato dopo che ho detto è lunedì, ma ricordatevi che meno male che c'è sempre l'Inter anche nei momenti di difficoltà. Lo so, mi si è ritorta contro leggermente questa cosa, eh? Vedremo dal nostro Mauro Meazza alle 7:45 se sarà così gentile nei miei confronti, se vorrà affondare il coltello nella gola. Faccia pure, fate pure, bella, fate pure. No, basta. Il cross che passa sul secondo Palocchi. E dai, sì. Rivoltata la Fiorentina. Prima Gonzalo Rodriguez. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè. Allora, oggi parliamo di questa vicenda degli appalti, della nuova inchiesta, dei nuovi scandali. Avremo Sergio Rizzo nel Corriere della Sera, avremo anche Antonio Di Pietro, colui che dice io quel Ercole in calza che ieri è stato arrestato, lo allontanai quando andai al Ministero delle Infrastrutture e poi è tornato. Parleremo di questa vicenda che coinvolge anche il ministro Lupi, che non è indagato ma è nella bufera mediatica per il Rolex regalato al figlio. Si difende in un'intervista a Repubblica, oggi vedremo, e comunque poi ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È martedì 17 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulle borse, rally da mini tassi sulle azioni, la spinta del quantitative easing. Questo è il titolo di prima pagina. Poi ovviamente la vicenda grandi opere è su tutti i giornali. Grandi opere, tangenti e favori, questa è l'apertura del Corriere della Sera, mentre per Repubblica appalti, la rete della corruzione. La Stampa, la tangentopoli delle grandi opere. Il Messaggero, Expo e TAV, tangenti e favori. Il Giornale, irruzione nel governo, PM scatenati, questo è il titolo di prima pagina, mentre Libero, han fatto il vestitino a Lupi. Sapete che tra le intercettazioni si parla anche di un vestito sartoriale per il ministro. Expo, TAV e grandi opere, la banda dei soliti noti, così apre il Fatto Quotidiano, mentre il Manifesto ha come titolo d'apertura giungla d'appalto. Come vedete le aperture sono soprattutto su questo. Voglio però raccontare intanto altre notizie, a cominciare da Gino Paoli. Ebbene sì, ogni giorno al suo Gino Paoli che spunta dai giornali. Oggi è La Stampa che racconta un'anticipazione con Matteo Indice a pagina 19 e racconta quello che Gino Paoli avrebbe riferito ai PM quando è stato interrogato per la vicenda dei soldi in Svizzera. Documento dopo documento, Gino Paoli si difende giocando la carta che aveva lasciato trapelare nelle scorse settimane, e cioè dimostrare che il conto svizzero su cui, secondo la procura, ha esportato illegalmente nel 2008 2 milioni di euro, evadendo così per 800.000 euro il fisco, è stato in realtà alimentato ben prima. Titolo dell'articolo, Gino Paoli dal PM pagato in Svizzera per i miei concerti. Difeso dal fiscalista Francesco Illuzzi e dall'avvocato Andrea Vernazza, ha portato un paio di carte più importanti delle altre, nelle quali c'è scritto già in epoca antecedente prelevai da quel deposito, a riprova di come le movimentazioni siano molto più datate di quel che mi si contesta. Paoli segnala ad esempio un rimpatrio di 146.000 euro pre-2008, cioè prima del 2008, dicendosi pronto a pagare se si concretizzassero contestazioni amministrative. Perché è fondamentale il confronto avvenuto ieri, scrive La Stampa? Perché se il cantante riuscisse a dimostrare che il denaro finito in Svizzera è finito lì in tranche differenti e in momenti diversi, vacillerebbe il presupposto che sia tutto frutto di evasione fiscale. Questo l'addebito che i PM Piacente e Franz gli muovono in base ad alcune intercettazioni. In una di queste c'è la moglie che parla di una cartellina da nascondere in un luogo sicuro. Comunque, il cantante, se ho responsabilità me le assumerò, racconta La Stampa. Questa è la strategia difensiva di Gino Paoli, ben diversa dal serafico vaffa lanciato all'inviato delle Iene, che ha provato ieri a chiedergli qualche spiegazione. Voglio invece raccontarvi qualcosa che riguarda ancora una scuola. Le benedizioni pasquali, ma queste cose non avvenivano prima a Natale con la questione dei presepi, le polemiche, adesso si sono trasferite a Pasqua. Ora l'ultima moda è contestare le benedizioni pasquali. Prima è successo in una scuola di Bologna, dove alcuni insegnanti e anche alcuni genitori, per la verità pochissimi su una maggioranza, hanno fatto ricorso al TAR, pensate, al TAR, per chiedere che non venisse fatta la benedizione pasquale. Ora, racconta il Corriere, succede in una scuola toscana, pagina 18, niente benedizione a scuola, ci sono altre religioni. Nel dicembre 2012 Don Renzo, parroco a Casalguidi, frazioncina di Serravalle Pistoiese, fu chiamato a benedire il nuovo polo scolastico Enrico Fermi, ma da 3 anni si lamenta durante l'omelia: la scuola non autorizza la benedizione pasquale. Lo ha stabilito il consiglio d'istituto della scuola, hanno deciso di evitare il rito cattolico come forma di rispetto verso gli alunni che praticano altre religioni. Lo spiega la dirigente scolastica Lucia Maffei, ricordando che la decisione fu presa 3 anni fa per far fronte alle richieste di un gruppo di genitori. Eccolo qua, un gruppo di genitori fa il paio, racconta il Corriere con Claudia Voltattorni, dei genitori e degli insegnanti di Bologna che si sono rivolti al TAR per chiedere la sospensione della delibera di un consiglio d'istituto che autorizzava 3 parroci a benedire 3 scuole per la Pasqua. Oh, per l'appunto, bisogna sempre aggiungere questa cosa, e l'accostamento non vuole essere di quelli che vi fa suscitare poi le reazioni arrabbiate, ma leggere questa notizia al fianco delle notizie che provengono invece dall'Iraq, nel particolare da Mosul, dove c'è lo Stato Islamico che controlla, beh, fa un po' specie, perché si è sentito parlare di tolleranza, di rispetto degli altri, e questi sono i valori importanti e dobbiamo essere orgogliosi del rispetto e della tolleranza nei confronti degli altri. Beh, non è che succede proprio da tutte le parti del mondo. Eccole qua le foto che trovate su tutti i giornali e l'apertura anche di Avvenire, è furia anticristiana. Beh, furia anticristiana intanto per l'attacco di domenica in Pakistan per i morti cristiani. Ma ci sono queste foto che arrivano da Mosul, dove vedete alcuni uomini incappucciati, alcuni uomini dello Stato Islamico, che salgono sul culmine della chiesa cristiana di San Giorgio, abbattono a bastonate la croce e mettono al loro posto la bandiera nera dello Stato Islamico. È l'apertura di Avvenire, appunto, la bandiera dell'ISIS al posto della croce, ma anche il Corriere dedica una pagina a questo con Lorenzo Cremonesi a pagina 16, con le stesse identiche foto, la croce prima dritta e poi piegata e la bandiera dell'ISIS al suo posto. Drappi neri sulle chiese, ecco le foto dello scempio. L'ISIS diffonde un documentario sulle dissacrazioni. Nella prima foto 3 militanti dello Stato Islamico sulla cupola bombata della chiesa abbattono una croce di metallo sullo sfondo azzurro del cielo immacolato. In primo piano, scrive Lorenzo Cremonesi, un altro jihadista sunnita, molto giovane, con gli occhiali e una bandana verde attorno al capo, sta rimuovendo una seconda croce più sottile sulla cima del campanile. Con lui un ghigno di fanatica soddisfazione che accompagna il viso illuminato dal sole. Scorri la sequenza e la seconda immagine riprende un uomo in tuta grigia impegnato a dare mazzate alla statua di San Giorgio che uccide il drago posta di fronte alla basilica. Eccola qui la furia iconoclasta dello Stato Islamico e l'abbattimento della croce e la profanazione della chiesa di San Giorgio. Evviva, a proposito di rispetto, tolleranza, eccolo qua, l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante. Se siete alla guida, cari ascoltatori, proviene da Libero, dove Chiara Giannini ci racconta la tolleranza e il rispetto di un gruppo di musulmani che stavano andando alla moschea di Colle Valdelsa, come è giusto, per pregare il loro Dio. Cosa succede? Erano sull'autobus, Colle Valdelsa, Toscana, Italia. Alcune ragazze italiane vogliono salire sull'autobus. le fanno stare giù perché sono poco vestite, secondo i loro canoni. Gli islamici vietano alle italiane di salire sul bus per la moschea. Chiara Giannini su Libero. A Colle Valdelsa racconta, in Toscana 20 musulmani costringono le ragazze a restare a piedi dall'autobus. Tra l'altro c'è una denuncia da parte della Lega che dice tra loro, perché poi sono arrivati i poliziotti l'indomani per fare, per permettere agli italiani di salire su un autobus a Colle Valdelsa in Toscana, e hanno identificato queste persone che il giorno prima le avevano cacciate. Tra loro hanno trovato anche un clandestino. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Vabbè, questa è una delle quali a cui sono, una di quelle a cui sono più affezionato. Capirete bene. Allora, cara ascoltatrice, grazie ovviamente, ma anche no. Però il tema più importante con cui aprono la gran parte dei giornali è quello della vicenda di nuova presunta corruzione. L'inchiesta di Firenze che ha portato all'arresto di 4 persone. Nomi eccellenti, anche se sono nomi che probabilmente voi non avrete mai sentito, la gente non ha mai sentito, ma sono eccellenti nel senso della burocrazia italiana. Uno soprattutto, Ercole Incalza, 70 anni, da più di 30 anni è considerato il principe al Ministero dei Lavori Pubblici. Ercolino, definito in un'intercettazione dal nome, no? Ercolino che decide i nomi tra tutti i suoi, fa il bello e il cattivo tempo. Questa è un'intercettazione ovviamente delle persone arrestate. Poi arrestati 3 imprenditori: il milanese Francesco Cavallo, il frusinate Sandro Pacella, collaboratore di Incalza, e il romano da tempo però residente a Firenze, Stefano Perotti. Allora, l'accusa è in pratica di corruzione, quello di avere gestito tutte le grandi opere con il malaffare. Questa è ovviamente l'accusa che andrà provata. Dai cantieri dell'Expo all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dalla Fiera di Roma all'alta velocità Milano-Verona, il terminal di Olbia, l'hub portuale di Trieste, il completamento della Livorno-Civitavecchia, la metro 5 di Milano, City Life, altri cantieri appetitosi, insomma miliardi di euro, più di 25, da gestire con tangente il 3% e prezzi lievitati anche del 40%. Questo pensano i magistrati di Firenze, come scrive sul Corriere della Sera Marco Gasperetti a pagina 2. Il titolo dell'articolo è "Appalti truccati, 4 arresti". Ovviamente ci sono già tutte le intercettazioni spiattellate sui giornali. Le intercettazioni rivelano che cosa? Beh, ovviamente vanno interpretate, ma secondo queste intercettazioni c'era una connivenza molto stretta tra Incalza e sicuramente anche il ministro Lupi, che per la verità qualche anno fa in un meeting di CL lo aveva pubblicamente ringraziato come una delle persone a cui il paese deve di più, questo Ercole Incalza. E poi c'è questo imprenditore Perotti che racconta al cognato in una intercettazione di avere trovato un lavoro al figlio del ministro Lupi. Ora voi capite, intanto la premessa è doverosa, ma è da fare sempre: il ministro Lupi in questo momento non è neppure indagato di nulla, nessuna ipotesi di reato nei suoi confronti. Ma intanto ci sono le reazioni. Lo stesso Lupi fa un'intervista, concede l'intervista a Repubblica, intervistato da Francesco Bei, è certamente da leggere. Pagina 6 e 7 di Repubblica: "Sto soffrendo per mio figlio. Quel Rolex", è l'accusa appunto di un Rolex, accusa insomma, "è stato regalato un Rolex al figlio, un Rolex da 10.000 euro da questo imprenditore Perotti. Quel Rolex io non l'avrei preso", dice Lupi. "Incalza era stimato da tutti. Dimettermi non vedo perché". Anche se, racconta Francesco Bei, di solito è gioviale, con la battuta pronta, stavolta Lupi tradisce anche nella voce la gravità del momento. "Provo l'amarezza di un padre nel vedere il proprio figlio sbattuto in prima pagina come un mostro, senza alcuna colpa, quando invece per tutta la vita ho educato i miei figli a non chiedere favori, né io ho mai cercato scorciatoie per loro". "Lei pensa alle dimissioni?", chiede Francesco Bei. "No, le dimissioni no, anche se per la prima volta Vedendo tirato in ballo ingiustamente mio figlio, mi son chiesto se il gioco valga la candela. Comunque c'è la presunzione di innocenza, ma è chiaro che se dovessero risultare fondate le accuse, sarebbe una sconfitta per tutti. Beh, soprattutto per lei. Ma guardi che Incalza, che è stato al ministero per anni, ha lavorato con tutti, tranne Di Pietro, e noi, parentesi, Di Pietro lo avremo alle 8:15, è stato il padre della legge obiettivo, è uno dei tecnici più stimati del suo settore, anche in Europa ce lo invidiavano. Ma mi scusi, aveva 14 procedimenti giudiziari alle spalle, chiede Repubblica. Ma è stato sempre riconfermato proprio per le capacità tecniche riconosciute da tutti. In questi 20 mesi non ho mai incontrato un presidente di regione che non mi abbia detto un giudizio positivo su di lui. E poi veniamo alle accuse. Il Rolex, eccolo qui, il figlio. Mio figlio si è laureato al Politecnico, 110 lode, dopo 6 mesi in America. Nel febbraio dello scorso anno gli hanno offerto un lavoro. Ci ha messo un anno, come tutti, ad avere il permesso di lavoro. E da marzo di quest'anno lavora a New York. Sì, ma il Rolex da 10.000 euro che Perotti gli ha regalato? Ecco la risposta di Lupi. L'avesse regalato a me, non l'avrei accettato. Tra l'altro sul Corriere della Sera la giornata di Lupi è raccontata così, con questa frase che secondo me, se confermata, non è un'intervista, ma se confermata racconta un pochino quella che è l'Italia, eh. Lupi dice: pensate, mio figlio è andato in America e non sono neppure intervenuto per accorciare i tempi della pratica per ottenere il visto. Ma come non sono appure, cioè lo dice come un vanto, no? Non sono neppure intervenuto, ma non dovrebbe essere una cosa normale non intervenire per accorciare la pratica per ottenere il visto. Vabbè, sarò strano io come sempre. In ogni caso, Renzi invece come ha reagito? Beh, i giornali raccontano di una Renzi glaciale. I titoli sono questi. È vero che il sottosegretario Del Rio ieri è andato da Lilli Gruber a dire: è prematuro parlare di dimissioni, Lupi non è indagato, eccetera. Le reazioni però di Renzi sono diverse, questo almeno secondo i giornali. Nessuna ombra, il nostro è il governo della legge anticorruzione. Questa è la linea di Renzi, pagina 7 di Repubblica. Tutti raccontano, anche il Messaggero: Renzi prende le distanze. Ora è difficile sostenere Lupi. Queste sono dichiarazioni non ufficiali, non pubbliche, dette così ai suoi collaboratori che filtrano sui giornali. Eccolo qua. Anche il Corriere della Sera dice: Renzi glaciale, questa la reazione nei confronti di Lupi. Ieri non si sono neanche sentiti. Staremo a vedere, ne parleremo alle 8:15. Intanto il governo ha presentato la legge anticorruzione. C'è sul falso in bilancio, anzi, e sulla corruzione. C'è un testo, tanto che Piero Grasso ha detto alleluia, visto che da 2 anni aveva fatto la prima proposta prima di diventare presidente del Senato. Oggi viene intervistato da Repubblica, da Liana Milella. Dice: la maggioranza dei cittadini è onesta, non è corrotta l'Italia, i corrotti vanno combattuti. La politica però deve correre, speriamo di recuperare il tempo. E sull'emendamento sul falso in bilancio dice Grasso alleluia. Ancora un'inchiesta sulla corruzione scuote il paese? Ho pensato a un vecchio libro, niente di nuovo sul fronte occidentale, risponde il presidente del Senato. La corruzione che viene scoperta purtroppo è soltanto la punta dell'iceberg. Le stime portano a pensare che ce ne sia una molto più profonda e diffusa. Poi parla appunto del falso in bilancio, della politica che deve correre per recuperare i ritardi e l'alleluia con cui ha accolto il testo sul falso in bilancio che sblocca un impasse di 2 anni. Piero Grasso. A proposito di corruzione, parla anche il presidente anticorruzione, Raffaele Cantone, colui che da un po' di tempo ha detto va rivista la norma Severino. Ecco che è stato accusato di dire questa cosa per favorire Vincenzo De Luca, cioè per favorire una persona. Lui, Raffaele Cantone, si arrabbia molto, intervistato dal Fatto Quotidiano da Gianni Barbacetto, a pagina 6 dice: non si possono collegare le mie dichiarazioni a vicende come il caso De Luca. Richiamare tutto ciò è pretestuoso, perfino gratuitamente offensivo. È da mesi che dico che la Severino ha bisogno di un tagliando. Sì, ma di che cosa In che cosa consiste questo tagliando? Ecco cosa propone Cantone: nel mettere a punto una legge che ritengo assolutamente indispensabile, però ci sono dei problemi, una legge che io vorrei rafforzare e non indebolire, per esempio inserendo la sospensione anche per la tentata concussione, sanzionando non solo vertici degli enti ma anche membri dei consigli di amministrazione, chiarendo le sanzioni che ora sono di difficile applicazione, rafforzando le incompatibilità per conflitto di interesse. E dico con chiarezza, chi vuole togliere l'abuso d'ufficio per la legge Severino sbaglia, sarebbe una soluzione non accettabile. Comunque sul Fatto Quotidiano Raffaele Cantone spiega come vorrebbe rifare la legge Severino. Ora voi mi capite, sono 7:43 minuti, le braccia sono alzate in segno di resa, la pistola è carica e puntata in mano al mio giustiziere, esprimo le mie ultime volontà che sono queste: l'Inter in Serie B, e chiamo in causa Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, vedo che sei ancora capace di sognare, eh? Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. No, mi riferisco alle tue cosiddette ultime volontà. No, perché ieri mi hanno massacrato sul meno male però, che c'è l'Inter. Te la sei un po' cercata. Un pochino e giustamente è arrivata. Guarda, io ti consiglio, per distrarti, un'attenta lettura del Sole 24 Ore di oggi. Ci sono molte cose interessanti. Non so, parliamo di società non operative. Uh-huh. Hai presente, non so, come può essere una difesa poco efficace nel caso di un cross sulle da sinistra o da destra? Ecco, più o meno così, però in termini fiscali. Società non operative, oggi su Norme Tributi consigliamo di presentare l'istanza entro il 31 marzo, per avere così tempo, casomai si fosse rifiutati, di fare una seconda istanza, cioè come, hai capito, un raddoppio che si fa in poco tempo. Poi si parla di voluntary disclosure, naturalmente la puoi fare anche se vai a risiedere all'estero, perché magari, che so, vuoi cambiare residenza per motivi tuoi, anche calcistici. E poi guarda, parliamo però anche di molte altre cose, ad esempio lo sai che il prezzo della cellulosa, ohimè, sta salendo, e a noi che ci occupiamo ad esempio di giornali la cosa non è così indifferente. La carta costa, come ben sai, ecco, costa ancora un po' di più. Te lo spiega Sissi Bellomo nelle pagine di Finanza, però fai attenzione. Poi oggi è martedì, quindi hai anche la pagina di Condominio per la revoca dell'amministratore. Quello è successo a voi quest'anno già. Sì, infatti, è un evento che può capitare, non c'è da vergognarsene. E poi ti parliamo anche di sofferenze bancarie, sempre nelle pagine di Finanza, perché sono purtroppo molto alte, ma procede il progetto di Bad Bank, cioè un modo per riuscire a sgravare dai bilanci bancari queste sofferenze. Staremo a vedere. Intanto io voglio concludere con una segnalazione dalle pagine invece di Imprese e Territori, molte altre cose poi le puoi trovare oggi nelle pagine del Sole 24 Ore. Ti voglio segnalare che l'antitrust ha ammonito anche i comuni ad poter permettere l'apertura dei distributori di benzina 24 ore su 24. Vedremo se questo monito sarà ascoltato. Per il momento sei stato gentilissimo. Guarda che Marco D'Acusago chiedeva: Mauro, eroe romantico, distruggi il materialista Milan. Non ho capito da dove. Vabbè, eroe romantico, vabbè. Allora io guarda, come un Ivano, lancerò il mio abituale grido: traffico! Alino Milan, il portatigre dell'informazione. Oh, grazie dolcissima bimba che ho avuto il piacere di conoscere domenica, è venuta a vedere Platone Live, l'abbiamo recuperato, vedi, la Peppa Pig, o il Peppa Pig sarei io, nell'informazione, eccolo qui. Allora, intanto dal punto di vista del lavoro, beh, c'è questa notizia positiva che viene data da tutti i giornali, cioè assumono 76.000 imprese, come abbiamo sentito anche Mauro Meazza sul Sole 24 Ore. Imprese e Territori racconta nei primi giorni di 20 giorni di febbraio, racconta Giorgio Pogliotti, 76.000 aziende hanno chiesto di accedere alla decontribuzione prevista dalla legge di stabilità per effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Sono i primi effetti dell'esonero dal pagamento dei contributi fino a 8.060 euro annui per una durata triennale evidenziati ieri dal presidente dell'INPS Tito Boeri. Dunque una fotografia positiva, speriamo che questo possa consentire a persone di riacquistare e acquisire un posto di lavoro, Questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda la cronaca, c'è ancora molto della polemica scatenata da Elton John nei confronti di Dolce & Gabbana dopo l'intervista di Dolce rilasciata a Panorama, in cui si parlava di bambini, come ne ha definiti, sintetici, no? I bambini, quelli fatti quelli degli omosessuali, insomma, che per natura non possono procreare, e quindi cosa fanno? Ricorrono a tecniche come fecondazione in vitro oppure l'utero in affitto. Vabbè, lo sapete, il boicottaggio lanciato da Elton John nei confronti di Dolce & Gabbana. Oggi vi segnalo l'intervista ad Aldo Busi sul Secolo XIX. Che tristezza, l'utero in affitto. Busi dice: i gay insieme ai neonati dovrebbero portarsi a casa anche le madri che hanno messo al mondo questi figli. Patrizia Albanese intervista Aldo Busi, che dice: affittare un utero, come mi inquieta la parte per il tutto, come fosse un robot smontabile e poi altrettanto assemblabile come prima. Una donna che fa così deve aver avuto dei traumi terribili, cioè una donna che affitta l'utero, secondo Aldo Busi, deve aver avuto dei traumi terribili. Busi che poi dice: io un figlio, no, per carità, di questi tempi sono molto più grato a chi non ne fa, e massimamente a me, che me ne sono guardato bene dal farne ancora in tempi non sospetti. Vabbè, così la pensò Aldo Busi. Possiamo anche andare oltre. La cronaca regala molto ancora sul delitto di Garlasco. Sono state depositate le motivazioni della condanna ad Alberto Stasi. Chiara era un pericolo per lui. Ma perché si dice pericolo? Perché secondo l'accusa e secondo i giudici, Chiara, la fidanzata, aveva capito soprattutto della passione per i film pornografici del fidanzato. Questa sarebbe la motivazione. Stasi l'ha massacrata senza pietà. Giusy Fasano racconta sul Corriere della Sera le 135 pagine che fanno a pezzi Alberto Stasi. Se il giorno della sentenza è stato nero, ieri non è certo andata meglio. In queste 135 pagine viene descritto come una persona dalla condotta per nulla collaborativa, fuorviante, tesa ad allontanare i sospetti da se stesso. Un Alberto Stasi, insomma, che giura da sempre la sua innocenza, ma che invece ha letto di essere un ragazzo riuscito con abilità e freddezza a riprendere in mano la situazione dopo aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Fronteggiò tutto abilmente, facendo le sole cose che potesse fare, quelle di tutti i giorni: accendere il PC, visionare immagini e filmati porno, scrivere la tesi come se nulla fosse accaduto. Questo è il profilo psicologico di Alberto Stasi, secondo i giudici di appello che 3 mesi fa lo hanno condannato a 16 anni di carcere. Ieri sono state depositate appunto le motivazioni. Mentre, che ti ha combinato Ibrahimovic? Potete vedere questo video un po' ovunque. Arrabbiatissimo dopo l'ennesima sconfitta del PSG in campionato, del Paris Saint-Germain, è uscito sbottando, buttando via la maglia e dicendo delle cose all'arbitro abbastanza irriferibili. E poi: Francia, paese di M, questo paese di M, la Francia non merita il Paris Saint-Germain, siamo troppo forti. Ovviamente apriti cielo, la Le Pen che dice se ne vada, Alessandro Milan che dice torna al Milan, insomma tutti che sono scatenati su Ibrahimovic. Le Pen espelle Ibra dalla Francia, titolo del Secolo XIX. Repubblica: insulti alla Francia, Le Pen attacca Ibra, ora vattene via. Il fuoriclasse svedese si scusa per la frase offensiva, cioè Francia paese di M, ma anche la sua squadra lo comincia ad accusare, a dire giochi e stia zitto. Vabbè, caro Ibrahimovic, a noi servirebbe un attaccante, vedi tu. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, Il Fatto Quotidiano, con Caterina Soffici, che racconta da Londra come la rete internet si sia scatenata contro il laburista inglese Miliband, che vive in una casa per miliardari ma si è fatto riprendere con la moglie per sembrare uno del popolo in un cucinino molto piccolo mentre sorseggia il tè. Ma chi se ne frega!